Buona giornata in primo da... piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Ovviamente è una rassegna stampa che, come già ieri nel corso delle trasmissioni Radio 24, è sempre pronta a darvi aggiornamenti anche dai colleghi Gigi Donelli e Valentina Furlanetto che sono qui in redazione. Come avete sentito nel corso del giornale radio, purtroppo stiamo aggiornando il bilancio delle vittime del terremoto di ieri. Siamo a 247 morti ufficialmente comunicati, ma sappiamo che si sta ancora scavando, si scaverà in questa giornata cercando di salvare ancora delle vite umane. E poi c'è tutto il problema delle ricostruzioni. La rassegna di oggi, naturalmente, nella rassegna dei giornali, dei quotidiani che trovate in edicola, non può non essere assolutamente monografica, cioè monotematica, sul sisma di ieri. Ci sono trattamenti per anche diversi, secondo che si voglia dare più enfasi all'aspetto umano della tragedia oppure al tema della mancanza di prevenzione, delle questioni anche politiche che possono interessare la cosa. Forse non è ancora il momento delle polemiche, ma più che altro di interrogarsi su quali strumenti abbiamo a disposizione ora per intervenire, e poi magari nei prossimi giorni vedremo anche di capire se ci sono state delle mancanze. Vi leggo qualche titolo, per quanto oggi appunto i giornali si somiglino un po' tutti. Il Corriere della Sera ha un grande titolo: morti e paesi cancellati, sisma devasta il centro Italia. Purtroppo l'aggiornamento delle vittime è fermo per i giornali alle 150 vittime che erano state comunicate nella serata di ieri. Siamo invece molto oltre, siamo saliti decisamente poi nella notte. Trappola in un albergo è una delle tante storie che i giornali raccontano. Si tratta dell'Hotel Roma, questo hotel di Amatrice, dove appunto si cercano, cioè ci sarebbero stati 70-80 ospiti e si cerca ancora di salvare qualcuno scavando in questo hotel. Il Messaggero, ovviamente, giornale che come sapete si fa da Roma, è molto sensibile al sisma del centro Italia, straziato il cuore d'Italia, due violente scosse di terremoto tra Lazio, Marche e Umbria, i morti, anche qui il dato non è aggiornato, oltre 150, molti bimbi. La terra trema ancora, sì, avete sentito anche nel giornale radio, alle 5:17 per la precisione c'è stata un'altra forte scossa. Non ci sarebbero stati ulteriori danni, ma chiaramente dobbiamo immaginare la situazione delle persone che in questo momento hanno perduto la casa, sono sfollate, hanno sistemazioni di fortuna nelle tendopoli o magari in macchina, e che hanno subito anche questa notte un'altra forte scossa. Ancora sul Messaggero ci sono altri titoli che annunciano i vari servizi all'interno. Ovviamente su tutti i quotidiani molte pagine sono dedicate al terremoto. Vi segnalo in particolare l'annuncio che viene sottolineato dal Presidente del Consiglio, che ha detto: sarà una vera riedificazione, non faremo delle new town, cioè delle altri comuni vicini ma non nella stessa posizione, quindi abbandonando in qualche modo il comune colpito, il centro colpito dal terremoto. E poi ancora qualche altro titolo sulla Stampa. L'Italia ferita. La Stampa adotta anche una modalità di sottolineatura, per così dire, della vicenda, avvolgendo in una sovracopertina occupata da una grande foto. L'avrete sicuramente potuta vedere nella giornata di ieri, è questa suora che è seduta per strada, ha in mano un cellulare ed è visibilmente ferita, ha del sangue sul velo e sul viso, e usa questa immagine appunto in modo simbolico per questo suo titolo, L'Italia ferita. Due editoriali, l'uno di Maurizio Molinari, del direttore, l'altro di Massimo Gramellini, per accompagnare questa speciale sovracopertina della stampa in edicola questa mattina, Molinari che parla della debolezza e della forza di un paese e il polvere e sangue, il volto della tragedia di Massimo Grammellini. Continuiamo, come già nella giornata di ieri, ad aggiornarvi costantemente sul terremoto che ha colpito il centro Italia. Sentirete ulteriori aggiornamenti nel corso del giornale radio che ci sarà alle 8. Intanto io vi do delle indicazioni su come questa vicenda è riportata dai giornali e magari, se poi avremo tempo, qualche altra notizia che comunque c'è sui giornali di oggi, pur occupati per molte e molte pagine dal resoconto e dagli interrogativi che inevitabilmente accompagnano il terremoto. Allora, eravamo sulla stampa, vi stavo spiegando, la stampa ha una particolare sovracopertina, cioè avvolge con altre quattro pagine la sua reale prima pagina, e una sovracopertina che serve ad ospitare i due editoriali di Maurizio Molinari e di Massimo Grammellini, e poi all'interno di queste quattro pagine una serie di immagini simbolo, compresa anche una cartina che mostra il punto dove il terremoto ha colpito, appunto in questa confluenza tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il cuore d'Italia, come scrive qualche giornale. E la prima pagina poi che si ritrova sotto queste quattro pagine che l'avvolgono: terremoto devasta il centro Italia, migliaia di sfollati nelle tendopoli, molti bimbi e turisti sepolti nel sonno. L'abbiamo ascoltato ieri nel corso delle dirette Radio 24, l'abbiamo visto sui siti, c'era un affollamento particolare dato dal periodo agostano, dal fatto che sono centri di villeggiatura o centri dove le persone magari che lavorano altrove tornano ai luoghi di origine. Sempre sulla stampa, questa prima pagina è completamente dedicata appunto alle vicende del terremoto. Repubblica ha un titolo molto secco: come una guerra. Terremoto nel cuore d'Italia, migliaia di feriti, interi paesi rasi al suolo, tra le vittime molti bambini. E poi una grande foto del centro storico di Amatrice che è distrutto in gran parte, come si vede in questa foto riportata in prima pagina di Repubblica. La prima pagina di Repubblica è pressoché monografica. C'è spazio solo per due piccoli rimandi, richiami, come si dice in gergo. L'uno per le vicende della guerra in Siria, blitz in Siria e vertice con Biden, i giochi spericolati di Erdogan. Si riferisce appunto all'offensiva turca che ha una funzione anti-ISIS, ma anche, appunto, come segnalato da vari commentatori, anche una funzione di anti-curdi. E poi la scoperta, questa sta su tutti i giornali con maggiore o minore evidenza: un'altra Terra, è stato scoperto questo pianeta che ha delle caratteristiche molto simili alla Terra sulla stella più vicina, è un pianeta che appunto orbita attorno alla stella più vicina, Proxima Centauri. Il nome del pianeta è Proxima B. Su alcuni giornali ci sono anche degli approfondimenti. Vi leggo il titolo del Sole 24 Ore, che appunto oggi vedrete con una prima pagina per quasi una buona metà occupata dalle vicende del terremoto. Terremoto devasta il cuore dell'Italia, almeno 159 morti. Anche qui, appunto, erano gli ultimi dati disponibili nel momento in cui abbiamo finito la lavorazione del giornale. Vi dicevo prima, il bilancio è purtroppo già salito a 247. Renzi, tempi certi per la ricostruzione e per l'emergenza, riferiamo oggi sul Sole 24 Ore già in prima pagina, pronti 234 milioni del Fondo Nazionale. Sul Sole 24 Ore di oggi anche una testimonianza molto particolare di un collega che era presente perché in vacanza e appunto ha aiutato a scavare, riferisce Luca Vinciguerra sul Sole 24 Ore questa sua giornata passata a cercare di aiutare a scavare, in realtà a mani nude. Appunto, lui era un turista come tanti altri di quelli sorpresi, colpiti dal terremoto. Altre notizie in prima pagina sul Sole 24 Ore, naturalmente con minore evidenza, Il titolo principale di questa mattina è dedicato alla manovra che si prepara per il 2017, come abbiamo riferito nei giorni precedenti. Come sapete, c'è tutta una trattativa complicata con l'Unione Europea per capire se ci sarà una maggiore o minore flessibilità. Da tagli e nuova voluntari, questo il nostro titolo di stamane, una dote da 6-7 miliardi, i nodi della stima del PIL, del prodotto interno lordo, e della trattativa appunto sulla flessibilità. Questo l'altro titolo, per così dire, con minore evidenza oggi sul Sole 24 Ore. Vi devo segnalare anche qualche titolo già un po' polemico in qualche modo, ad esempio quello del Fatto Quotidiano, un altro terremoto e i soliti coccodrilli, 150 miliardi spesi in 50 anni per ricostruire e solo spiccioli in prevenzione. Questa è la critica che già il Fatto Quotidiano decide di riportare in prima pagina con il suo titolo principale. Solo un miliardo negli ultimi 7 anni, riferisce già il richiamo, è stato speso per evitare nuove tragedie, e non sono antisismiche il 60% delle abitazioni italiane. È così invece anche polemico, in qualche modo analogo, il titolo di Libero. Sempre impreparati, questo è il titolo principale. Ancora terremoto, l'Italia è un territorio sismico, ma quando costruiamo case non ne teniamo conto. A ogni tragedia il governo promette soluzioni e sicurezza, poi se ne scorda perché, scrive polemicamente Libero, gli importa della solidità di un unico palazzo, il suo. Questo il titolo di Libero. Invece del tutto diverso e in qualche modo anche inatteso, il titolo principale del giornale, la prima pagina del giornale di oggi, che titola Forza Italiani, Forza Renzi, terremoto nel cuore del paese, devastante sisma tra Lazio, Umbria e Marche, cancellato il paese di Amatrice, si cercano superstiti. All'Aquila la sinistra fece polemica politica, ora dobbiamo restare uniti, quindi con una sorta di polemica a distanza rispetto a quanto era stato, quanto era successo poi nelle settimane successive all'Aquila. Il giornale però esorta oggi, anche con un editoriale di Alessandro Sallusti, a essere italiani e basta, così scrive appunto, non ci resta che stringerci tutti attorno a chi in queste ore ha il compito di lenire i dolori, salvare più vite possibili, curare i feriti, confortare e aiutare concretamente chi ha perso ogni bene. Parliamo del governo e delle sue istituzioni. Così, senza alcuna esitazione, oggi diciamo forza Renzi. Tocca a lui fare il possibile e l'impossibile, e noi saremo al suo fianco per sostenerlo. Questo il passaggio di Alessandro Sallusti. Il giornale, sapete, è sempre molto critico nei confronti del governo, ma fa una sorta di esortazione per dire no, non commettiamo l'errore. Chiaramente c'è un sottofondo anche polemico nella cosa, ma ve lo sottolineo perché è particolare nel panorama di questa mattina. Questo è il titolo del giornale. Potrei andare avanti a leggervi diverse altre prime pagine, ma vi invito anche a sfogliare in questa giornata in cui purtroppo continueremo a darvi gli aggiornamenti dai territori colpiti dal terremoto. Vi invito anche a sfogliare sui quotidiani, tra le molte storie che purtroppo costellano questa tragedia del terremoto. E allora io ne sfoglio dalla Stampa in modo così assolutamente casuale. In realtà ci potrebbero essere tanti altri quotidiani che vanno benissimo per questo fine. Il reportage sono indicati dalla Stampa: Pescara del Tronto, solo macerie, un paese che non c'è più, e poi l'albergo di Amatrice di cui vi avevo già riferito. Accumuli con la famiglia distrutta dal campanile, questa è una storia particolarmente straziante, il crollo del campanile che ha coinvolto, che ha ucciso una famiglia che abitava lì accanto. E poi il miracolo di Giorgia, una buona notizia, viva dopo 15 ore ad Arquata del Tronto. Questo il ritrovamento invece, conclusosi bene, segnalato dalla Stampa. La Stampa poi nelle pagine interne recupera anche il reportage della giornata con una serie di indicazioni dei momenti chiave dalla scossa delle 3.36 per arrivare fino alle 24 di ieri. Vi do un aggiornamento perché intanto è stato comunicato che nella notte sono state avvertite 39 scosse tra Lazio, Marche e Umbria. Continua a tremare, riferisco da un'agenzia alla Terra, tra Lazio, Marche e Umbria. Nella notte l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato numerose scosse nelle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila e Teramo. 39 eventi sismici localizzati di magnitudo pari o maggiore a 3.0. I più forti, le maggiori di queste scosse sono state avvertite nella zona di Norcia. Qui la magnitudo, questo termine scientifico con cui purtroppo familiarizziamo ogni volta in queste occasioni, la magnitudo è stata del 5.1 e 5.4. Sono due scosse della notte, 4.32 e 4.33. Vi avevo già riferito di un'altra scossa, poi alle 5.17. Adesso questo appunto il resoconto diffuso dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Restiamo ancora naturalmente sul terremoto, ma proviamo a fare qualche passo in avanti, cercando di comprendere le cause del perché abbiamo visto dei crolli così imponenti, così devastanti, e se si poteva fare qualcosa. Questo sarà un tema naturalmente che occuperà le giornate prossime, forse anche le settimane successive. Andrea Rossi sulla Stampa, in una delle pagine di approfondimento che il quotidiano torinese dedica al terremoto, spiega: friabili e vecchie di un secolo le case che cedono al sisma, già spesi 180 miliardi per i disastri, per un'Italia sicura ne basterebbero 100. E spiega Rossi: l'Italia che crolla spesso è costruita sulla roccia e con la roccia, quasi tutto l'Appennino rurale corrisponde a questo spaventoso identikit, e così è per Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, sventrati dal sisma, edificati su affioramenti rocciosi, quando di leggi antisismiche nessuno si occupava. Ci sono dei dati, li trovate anche su altri quotidiani, vengono riassunti in questo articolo, sullo stato, sulla età del nostro patrimonio abitativo. Allora, il patrimonio abitativo, secondo quanto ha calcolato l'Istat, ha un 14% di edifici che è stato costruito prima del 1919, poi un 10% che risale a prima della 1945, il 36%, quindi oltre un terzo, appartiene agli anni del boom, cioè quelli tra il dopoguerra e il secondo dopoguerra, fino ad andare al 1971. Il 26%, un quarto del nostro patrimonio abitativo, risale a dopo il 1982. Questo è il valore nazionale, ma ad esempio ad Accumoli il 60% delle 292 case è stato costruito, purtroppo dobbiamo dire era stato costruito, prima del 1919, quindi più della metà, il 60%, 6 case su 10, erano più vecchie praticamente di un secolo. E ad Amatrice, su 1.301 case, 498 pure risalivano a prima della Grande Guerra e altre 156 a prima del 1945. Insomma, sono borghi in qualche modo storici e fanno parte poi anche dell'attrattiva, in qualche modo, della bellezza di questi borghi. Fa parte anche la vetustà dei suoi edifici. Ebbene, questo stato poi si rivela anche molto sensibile, molto debole di fronte a terremoti di questa portata. Continua Rossi: da queste parti il calcestruzzo armato e merce rara, l'80% delle case e gli edifici pubblici è realizzato in muratura, la media italiana è il 60%. Non sarebbe un problema se non fosse che qui muratura vuol dire calcare o ciottoli con appena un po' di malta di calce, quindi una facilità anche a essere aggrediti da un sisma, peraltro molto violento, come quello avvenuto ieri. Quello che fa invece un po' più specie è che siano crollate anche abitazioni e strutture relativamente recenti che avrebbero dovuto in teoria dare una protezione maggiore di questo. Ad esempio del crollo di ospedali o scuole si riporta su parecchi giornali. Immagino che la questione sarà poi oggetto di polemiche nei giorni a venire. Ancora dalla Stampa, il dossier su 4 secoli di leggi rimaste lettera morta per burocrazia in curia, le disposizioni sui nuovi fabbricati che obbligano appunto alle prevenzioni e alla costruzione di tipo antisismico in vigore solo dal 2009. Della questione ci occupiamo anche sul Sole 24 Ore, nelle pagine iniziali appunto dedicate al terremoto, e come spiega Massimo Frontera l'obbligo per la costruzione antisismica è a metà, perché ad oggi non è obbligatorio l'adeguamento sismico degli edifici già esistenti, è obbligatorio farlo in caso di interventi di ristrutturazione rilevante. Rilevante vuol dire appunto quando si interviene in modo pesante sull'edificio, sulla sua struttura. È obbligatorio applicare poi queste norme antisismiche alle nuove costruzioni. Poi sarebbe obbligatorio, e qui appunto immagino che la questione avrà un seguito, sarebbe obbligatorio verificare edifici e infrastrutture definiti strategici, cioè quelli che in caso di calamità naturale devono restare in piedi per consentire di gestire le emergenze e assicurare il ricovero delle persone, stadi, prefetture, ospedali e scuole. Questa attività era in effetti prevista da un'ordinanza della Presidenza del Consiglio del 2004, ricorda Paolo Rocchi, che è ordinario di consolidamento di edifici storici alla Sapienza. E tra le altre cose, spiega appunto al Sole 24 Ore Paolo Rocchi, l'ordinanza prevedeva verifiche su edifici strategici e anche sui beni culturali. Però queste verifiche in realtà non sono state fatte, perché spiega Rocchi, se si fanno queste verifiche e poi ci si accorge che l'edificio non è in regola, che si fa? Lo si chiude? Quindi non le ha fatte nessuno. Per i beni storici ci sarebbe anche la possibilità di fare interventi di miglioramento antisismico, che sono più soft, più leggeri di quelli rispetto all'adeguamento, però non, di obblighi appunto non si parla. Se aggiungiamo appunto a questa vicenda anche l'anzianità proprio di costruzione di questi immobili, purtroppo abbiamo poi il risultato che stiamo vedendo in queste ore. Vi segnalo dal Sole 24 Ore il lungo contributo di Giorgio Santilli, che parla di un piano, invoca un piano straordinario per il territorio. Servono 4 miliardi all'anno, non sono una cifra particolarmente importante per il bilancio di uno Stato, 4 miliardi all'anno però per i prossimi 20 anni questi potrebbero fare in modo appunto di mettere in sicurezza il paese, di ridurre, perché prevenire appunto, non prevenire un terremoto è al momento impossibile secondo le nostre conoscenze, però si potrebbe intervenire per ridurre l'impatto soprattutto in termini di vite umane, ma anche poi di impatto sulla vita di tutti quanti, sulle attività di tutti quanti. Si è messa subito in moto una macchina della solidarietà, ne avrete sentito, ne abbiamo riferito, ve l'abbiamo segnalato sui siti, i vari giornali ne parlano in più punti, ci sono diverse catene costruite appunto per raccogliere le donazioni in denaro, ma non solo in denaro, da parte di tutti noi, di tutti gli italiani che vogliono donare. Allora, questa vicenda viene raccontata, queste vicende, questi indirizzi vengono dati da diversi giornali, ad esempio sulla Stampa si riferisce dell'iniziativa della Protezione Civile con l'SMS solidale e poi anche con iniziative molto particolari come l'Associazione Bancaria Italiana, che ha invitato gli istituti a sospendere i pagamenti delle rate del mutuo. Ne trovate la notizia su diversi giornali. Io passo magari in questo momento ad altre notizie, intanto continuo ovviamente a dare un'occhiata alle agenzie per vedere se ci sono aggiornamenti. Siamo ancora, diciamo, per quanto riguarda il terremoto, siamo a questo aggiornamento di cui vi riferivo, delle 39 scosse durante la notte. Veniamo all'attività di governo. Naturalmente priorità per il governo a questo punto diventa l'intervento nelle zone colpite dal sisma, ma oggi c'è previsto un Consiglio dei Ministri importante per quanto riguarda la dirigenza. Perché la dirigenza pubblica, i dirigenti pubblici? Perché, come spiega Repubblica, prima mossa di Renzi la riforma dei dirigenti per avere più flessibilità in Europa. Al Consiglio dei Ministri il decreto Madia, il fatto appunto è un decreto che dà attuazione alla riforma della pubblica amministrazione contenuta nella legge proposta e poi approvata dal ministro Marianna Madia, e quindi si chiama ormai decreto Madia, è l'attuazione di un pezzo di questa riforma. Pressing dei burocrati per essere esclusi da questa riforma, lo spiega Valentina Conte nelle pagine di Repubblica. C'è stata tensione nella riunione del pre-consiglio dei ministri, e poi si prevedono anche tagli agli stipendi dei manager pubblici senza incarico. Naturalmente questo tipo di appuntamenti politici e amministrativi dovrà adesso regolarsi secondo le urgenze che invece vengono dal terremoto. Sul Messaggero pure c'è questa notizia della riforma attesa oggi in Consiglio dei Ministri, questo pezzo di riforma della pubblica amministrazione attesa del Consiglio dei Ministri. Il titolo scelto dal Messaggero è "Dirigenti pubblici, così i licenziamenti". La riforma oggi in Consiglio dei Ministri: senza incarico lo stipendio verrà ridotto del 30% e con una valutazione negativa si esce dalla pubblica amministrazione. Tutti dovranno ruotare nei loro posti, ma i super burocrati avranno una corsia preferenziale per non essere subito rimossi. Un altro provvedimento che è atteso dal Consiglio dei Ministri è la proroga per l'età pensionabile dei magistrati, proroga 72 anni per le toghe, verso il congelamento per un altro anno del limite di età per i magistrati, ma forse, avverte il Messaggero di oggi, forse la norma varrà solo per la Cassazione. E poi c'è anche un decreto in arrivo che dovrebbe contenere norme per ridurre il carico di lavoro della Cassazione ancora. Questo sul Messaggero come attività politica. Abbiamo un minuto, credo, chiedo conferma a Peter Bescapè questa mattina in regia, grazie Peter per l'aiuto, un paio di minuti, allora restiamo sulle vicende politiche, torniamo sul Sole 24 Ore per la manovra. Vi dicevo che già in prima pagina stiamo riferendo di questa preparazione della legge di bilancio che poi prenderà corpo nel mese di settembre e ottobre. Tagli e voluntary disclosure, il voluntary disclosure appunto la possibilità di regolarizzare i capitali, i patrimoni detenuti irregolarmente all'estero, ma non solo all'estero, detenuti irregolarmente dal punto di vista fiscale. Da tagli e voluntary almeno 6-7 miliardi è l'aspettativa appunto che il governo ha per avere delle entrate a supporto delle misure di uscita per il 2017. Scrive Marco Rogari, avanza il dossier sulla fase 3 della spending review, insomma del taglio della spesa pubblica improduttiva, e sul riordino delle tax expenditures, un termine anglosassone che poi sta a indicare tutto l'insieme delle riduzioni fiscali varate e previste per le più varie cose, dalle nostre spese mediche fino ad arrivare a riduzioni per particolari settori produttivi o per particolari platee di contribuenti. Sul Sole 24 Ore appunto anche queste anticipazioni aggiornate con le ultime trattative in qualche modo che sono in corso. Ovviamente è una rassegna stampa che è quasi monotematica, perché abbiamo parlato a lungo, abbiamo segnalato a lungo i molti, moltissimi contenuti dei quotidiani oggi in edicola che si occupano del terremoto nel centro Italia. I quotidiani, per fare magari un rapidissimo riassunto di temi, hanno ampio spazio per tutte le storie, le vicende legate alle persone interessate da questa tragedia. Riferiscono appunto delle visite del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, della Presidente della Camera Laura Boldrini sui territori colpiti dal sisma, gli annunci, gli interventi del governo. Ci sono già oggi, appunto, dovrebbero essere varati il primo piano di aiuti. Ci sono già centinaia di milioni disponibili. Questo è un po' questo è il panorama complessivo. Volevo tornare su un aspetto di cui vi davo notizia già prima, tornare con maggiore dovizia di particolari sul giorno. La solidarietà, le iniziative di solidarietà, non mi riferisco naturalmente ai volontari, alle persone che si sono messe a disposizione proprio per intervenire in questi territori, ma alle raccolte fondi e agli altri tipi di raccolte che possono essere fatte. Sul Giorno, Quotidiano Nazionale, oggi in edicola un primo riassunto di queste iniziative, che sono parecchie, per fortuna, insomma, viene da dire, sono fortunatamente parecchie, come spesso accade in questi casi. C'è una tra quelle segnalate dal Giorno, la raccolta fondi della Croce Rossa con la causale terremoto Centro Italia, e trovate i dettagli sul sito della Croce Rossa www.cricri.it. E poi i comuni italiani, perché l'ANCI, l'Associazione Nazionale, ha aperto un conto corrente denominato Emergenza Terremoto Centro Italia. Sul Giorno trovate anche gli IBAN, cioè quella lunga sequenza di lettere e numeri, ma non ve ne do lettura adesso. Il sito dell'ANCI è www.anci.it. E poi la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, e i Vescovi, che hanno disposto l'immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell'8 per 1000 per far fronte alle prime urgenze del sisma. La pagina che raccoglie tutte queste iniziative è curata da Giovanni Rossi. C'è anche l'annuncio, vi dicevo, ve lo riferivo, dell'Associazione Bancaria Italiana, che invita le banche a sospendere il pagamento delle rate dei mutui per imprese e privati nei territori colpiti dal sisma. Un invito senza particolari adempimenti burocratici. Già a qualche banca ha aderito a questo invito. Vedremo, poi vi segnaleremo via via, sia sul nostro sito sia sul quotidiano, quali saranno magari gli istituti più attenti, più pronti a accogliere questo appello dell'Associazione Bancaria Italiana. Non vi avevo segnalato la prima pagina del Giorno, e allora lo faccio ora. La tragedia e il coraggio, trema il cuore dell'Italia, alba di paura e crolli. E di nuovo, anche per il Giorno, ovviamente il numero delle vittime non può essere adeguato alla realtà. Allora purtroppo ve lo ripeto: 247 i morti accertati a questa mattina, e nella notte ancora 39 scosse. Avvenire, era una prima pagina di cui non vi avevo dato segnalazione. Scosse letali, l'Italia alla prova. E Avvenire riferisce anche del dolore del Papa in preghiera. Raccolta CEI nelle chiese è quello di cui vi ho dato notizia poco fa. Mi sforzo in questi ultimi 10 minuti scarsi, anche meno, che sono assegnati alla rassegna stampa, di darvi qualche altra notizia. Vi parlavo di questa scoperta di un altro pianeta Terra, di un pianeta gemello. Lassù tra le stelle c'è un'altra Terra abitabile vicina, ecco Proxima B. L'Osservatorio Australe Europeo ha trovato il pianeta gemello, ne parla Giovanni Bignami oggi su Repubblica. Gli astronomi hanno trovato un pianeta che è vicino a Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole. Nella costellazione Centauro è a circa 4 anni luce, quindi soltanto un quarto di milione di volte la distanza della Terra dal Sole. Soltanto naturalmente è relativo per quanto riguarda questo tipo di distanze. Non è però detto che il fatto di avere delle caratteristiche simili possa equivalere a una condizione di vivibilità e addirittura di vita su questo pianeta, perché spiega che la temperatura alla superficie consentirebbe acqua liquida se ci fosse un'atmosfera, cioè potrebbe essere un pianeta dove potrebbe essere cominciata la vita. Però, spiega Bignami, ricordiamo che la vita sulla Terra è nata 4 miliardi di anni fa, ce ne ha messi più di 3 per andare oltre gli organismi monocellulari, genera poi animali da poche centinaia di milioni di anni e l'Homo sapiens ha solo, sempre relativo, 150.000 anni. Gli astronomi con grossi telescopi hanno soltanto poi poche decine di anni, e quindi è un niente. Se la vita su questo pianeta fosse cominciata un anno fa, la vita tecnologica ci sarebbe da una piccolissima frazione di secondo. Quindi la probabilità che su Proxima B ci siano astronomi che ci guardano è molto piccola, purtroppo. Questo per questa scoperta che trovate su tutti i giornali, la scoperta di questo pianeta gemello della Terra. Vi ho riferito già del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le decisioni che sono attese per oggi, soprattutto quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione. Adesso invece vi do una sottolineatura, per così dire, che sta tra il colore e invece la cronaca più preoccupanti. Su tutti i giornali troverete questa notizia della bagnante che a Nizza è stata obbligata a togliersi il burkini dalla polizia, o almeno così sarebbero andate le cose. La polizia ferma una donna a Nizza e il ministro Cazeneuve poi ha incontrato i leader della comunità islamica. Basta stigmatizzare i musulmani, ne scrive Leonardo Martinelli sulla Stampa. E riferendo però che appunto il caso nasce da una serie di foto scattate su una spiaggia a Nizza con una donna velata, interpellata da alcuni agenti municipali, una donna che poi ha tolto la tunica che indossava. Si è scatenata una valanga di proteste sui social network e Bernard Cazeneuve, che è il ministro degli interni francese, ha incontrato poi un alto dirigente della comunità islamica, mettendo in guardia contro la stigmatizzazione dei musulmani. Insomma, è la cosiddetta polemica del burkini che, al di là delle questioni appunto di abbigliamento, finisce per essere un punto poi di scontro tra chi dice va consentito alle donne di vestirsi come vogliono, come credono, e chi invece vede nel burkini uno strumento non adeguato, non rispettoso in qualche modo, perché presentarsi vestiti in un luogo dove altre bagnanti invece sono vestite solo del costume, ecco, questo sarebbe un atteggiamento che non va bene. Questa polemica partita dalla Francia, che ha interessato anche l'Italia, adesso appunto c'è questo caso di cui riferiscono molti giornali. Sul Sole 24 Ore una notizia invece per quanto riguarda la inchiesta della Unione Europea su Apple, il governo americano che scende ufficialmente in campo perché vuole difendere Apple nell'istruttoria aperta dalla Commissione Europea per sospetti aiuti di Stato. Il governo statunitense sospetta che ci sia una sorta di accanimento e che un appunto di motivi di protezionismo da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha replicato, ieri la Commissione ha replicato che la legge dell'Unione si applica a tutte le società operanti in Europa, non c'è alcun pregiudizio contro le aziende americane, il pregiudizio che invece contesta il governo americano. Torniamo un istante ancora in chiusura sul terremoto, tra pochissimo il giornale radio con tutti gli aggiornamenti. Come sempre in questi casi si discute, ma si può prevedere o non si può prevedere il terremoto? In fondo la scienza, la tecnologia hanno fatto grandi passi avanti, perché non ci si riesce? E allora lo spiega questa mattina una sismologa ad Harvard, Marine De Nolle, lo spiega Elena Dusi su Repubblica. Dice: previsione nel nostro campo è ancora una parola tabù, specialmente dopo quel che è avvenuto all'Aquila. Ma qualcosa si sta muovendo. California e Giappone sono diventati paesi guida nell'adozione dei sistemi di allerta rapida. E dice, allora chiede Elena Dusi, ma non sappiamo dire nulla quindi su quel che avverrà domani nell'Italia centrale? La risposta della sismologa De Nolle è: ci sono leggi della fisica che consentono di fare previsioni affidabili entro certi limiti su quel che avviene dopo un terremoto. Sappiamo che una scossa forte viene quasi sempre seguita da scosse più deboli. dice, ma parlate sempre di rischi e probabilità senza poter dare informazioni più precise? La risposta della sismologa è: a differenza di altre scienze, quella dei terremoti è una scienza giovane, ha solo una cinquantina d'anni. Quando registriamo una scossa possiamo tracciare la presenza di una faglia sismica. Quando le faglie sono al di sotto di 10 km possiamo anche delinearle. Se studiamo bene una faglia possiamo imparare che genera terremoti, che so, ogni 100 anni, però con un margine di incertezza di 30 anni. E allora possiamo fare dei calcoli: se l'ultima scossa è venuta 120 anni fa, ci aspettiamo che colpisca a breve. Purtroppo prevedere una scossa resta molto, molto difficile. Immaginiamo, è la spiegazione della sismologa a Repubblica, di avere un bicchiere che è pieno d'acqua fino all'orlo, di aggiungere altra acqua una goccia alla volta. Come facciamo a prevedere quale goccia sarà quella che farà tracimare il bicchiere? Con i terremoti il discorso è simile. Forze e stress in azione sulle faglie sono altissime e basta una piccola alterazione per scatenare una scossa. I segnali che potrebbero essere interpretati come precursori sono rari e vengono puntualmente osservati, ohimè, solo dopo il terremoto. Bene, abbiamo concluso questa rassegna stampa, una rassegna stampa appunto molto particolare. Siamo pronti per dare la linea al giornale radio per tutti gli aggiornamenti sul terremoto. Radio 24 proseguirà anche oggi con una serie di trasmissioni, di collegamenti in diretta, così come avete potuto ascoltare ieri, e poi tutti gli aggiornamenti sul nostro sito, sul sito www.ilsole24ore.com, sul sito di Radio 24. A disposizione anche la diretta per seguirci in ogni momento. Grazie a Peter Bescapè e una buona giornata a tutti quanti.